Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono, Sandro Mangiaterra in co-conduzione, e stavamo riflettendo sul fatto che non è che un'azienda deve per forza per tutta la vita fare la stessa cosa. No, assolutamente. Anzi, soprattutto di questi tempi. Cioè, mi piace pensare questo, che la ricerca sia universale e le applicazioni siano infinite. Certo. E che quindi la contaminazione oggi sia l'arma vincente. C'è il meticciato anche nell'azienda, insomma, nei settori industriali. Non c'è più il meccanico, il tessile, il chimico. Ognuno... c'è il meticciato della ricerca e il meticciato delle applicazioni. Quasi tutto ci provano. L'importante a fare è essere tutto. Innovativi. E l'importante è essere anche i più bravi a fare. Tra l'altro, stavamo riflettendo sulla tecnologia. Cioè, a un certo punto, Microsoft si è messa a fare i videogame. 4 anni dopo, non è diventata leader quasi. La Nokia si mette a fare i computer. Bene, tutto questo è vero anche nelle piccole e medie imprese italiane. Anzi, sono loro che in questo momento appunto utilizzano le conoscenze che servono per lanciare prodotti ad alto valore aggiunto e sfidare i mercati internazionali. Oggi raccontiamo due storie che a cavallo tra la meccanica e la medicina. Esattamente, sono due storie molto singolari. Non a caso nascono entrambe nel Bresciano, che è la patria della meccanica di questo paese, anche un'area in crisi, insomma, in forte difficoltà, la meccanica quella vecchio stile, no, nel Bresciano. E sono due storie speculari di aziende che una parte dalla meccanica e arriva la medicina, l'altra parte dalla medicina e arriva la meccanica. Un appello agli ascoltatori, 824 0024, se avete storie di aziende che hanno cambiato, anche di negozi, di attività commerciali, che a un certo punto sono impazzite, hanno cambiato idea e hanno deciso di produrre trovando l'arma vincente, chiamateci, siamo qui, perché qui con noi c'è Andrea Venturelli, 43 anni, presidente delle Invatec di Roncadelle Brescia, tutto giusto? Esattamente. Buongiorno, sentiamo. Buongiorno. Chi è nella scheda di Sandro Mangiaterra. Leggenda narra che Andrea Venturelli, 43 anni, producesse tubi di gomma per lavatrici e altri elettrodomestici. Una decina d'anni fa, l'incontro con un chirurgo. «Scusate, ma voi sareste in grado di fabbricare tubicini di pochi millimetri?» «Sì? E allora perché non vi buttate sugli stent? È la medicina del futuro!» Detto fatto, la Invatec di Roncadelle, provincia di Brescia, è oggi una delle maggiori aziende italiane di prodotti biomedicali. È leader nella produzione di stent, quei tubicini che si inseriscono nelle arterie per evitarne le occlusioni e dunque per prevenire infarti e ictus, ai quali ha aggiunto palloncini per angioplastica e palloncini a rilascio di farmaco. Venturelli vende in oltre 70 paesi del mondo, Stati Uniti, Giappone e Cina compresi, e il 90% dei 60 milioni di fatturato proviene dai mercati internazionali. Quello della Invatec è un perfetto esempio di trasformazione aziendale. A contare veramente sono la leadership tecnologica, la ricerca e la voglia di innovare. Alle applicazioni pensano le idee. E quindi quando è, io voglio capire, quando avete deciso, quando è passata l'idea, ok, passiamo alla medicina, i nostri tubicini entreranno nei corpi umani, cioè, perché questo non è un passaggio da poco, eh? Ci vuole sempre un po' di fortuna in queste cose, e nella scheda non è stata nominata una persona importante per questo passaggio, che è sicuramente mio padre, che è l'anima ispiratrice di tutto questo, persona che oggi fa altro, si diverte facendo vino. E... quindi un po' di famiglia, questo sì, cambiare. Esattamente. Diciamo che l'ispirazione della famiglia o il marchio di famiglia è la ricerca del cambiamento continuo, che poi è un po' lo spirito della ricerca e dell'innovazione. Quindi da cosa parte questa cosa? Sì, noi facevamo tubi per il settore elettrodomestico, per il settore dell'auto. E giusto per uno sfizio, una volta mio padre ha detto: perché non costruiamo invece che un tubo con un foro solo, che è il classico tubo che tutti conosciamo, vediamo se si può fare un tubo piccolo con 3 fori. Ecco, nel settore, noi non conoscevamo niente dell'area biomedicale, e nel nostro settore un tubo con tre fori si chiama multilume, viene normalmente utilizzato per la produzione di cateteri. Per vie fortuite questo tubo è finito nelle mani di una multinazionale che produceva prodotti biomedicali e ci ha chiesto se potevamo produrglielo. Uno degli altri hobby che avevamo io e mio padre era di fare modellini, macchine, aeree, cose di questo genere, e dal tubo multilume di piccole dimensioni ci hanno chiesto di assemblare prototipi. Piccoli quanti dimensioni? Di quanto stiamo parlando? Stiamo parlando di dimensioni che viaggiano dagli 0,5 ai 2 mm, queste okay. sono le logiche di cui stiamo parlando. E per cui da questa cosa abbiamo cominciato a assemblare cateteri. Semplicemente unendo delle tecnologie che conoscevamo, la tecnologia della plastica che veniva dall'attività che facevamo e la tecnologia del metallo che veniva dagli hobby di famiglia in un certo senso. Senta Venturelli, quindi, ma un conto è lo sfizio, proviamo a fare un tubino piccolino, un conto è costruirci sopra un'azienda di altissima tecnologia, altissima innovazione. Voi tra l'altro avete vinto il premio nazionale per l'innovazione della Confindustria per il settore piccole e medie imprese quest'anno. Quindi, e un conto è poi avere anche successo sui mercati internazionali. Insomma, quando avete fatto proprio, come si dice, il passaggio definitivo? E perché? Quando avete capito che era la carta vincente? Allora, quando abbiamo cominciato a approcciare questo settore, come dicevo, in maniera veramente fortuita, ci siamo resi conto delle potenzialità di questo mercato, e forse la chiave di volta è stata quando un giorno mio padre mi disse: guarda Andrea, probabilmente se andiamo avanti così chiunque potrà mettere, come diceva lui, un estrusore in cantina. L'estrusore è quello che fa i tubi, per cui dovremmo fare qualcosa di diverso. Siamo venuti a conoscenza di questo settore, abbiamo capito che come dicevo, un settore in via di sviluppo, cresce circa del 15% all'anno, è legato all'invecchiamento della popolazione, per cui non vede momenti ciclici, e abbiamo capito che la nostra tecnologia poteva in qualche modo essere applicata, abbiamo capito che il nostro spirito innovativo era quello che si aveva in questo mercato, abbiamo capito che era quello che mancava in questo momento e che manca sempre di più alle multinazionali, perché hanno tempi di sviluppo molto più lunghe. E tra l'altro il nostro è un settore dove l'innovazione viene dal medico, è il medico che pensa alle cose da fare, e noi abbiamo voluto proporci come l'interlocutore preferito del medico per l'innovazione. Ecco, ma nessuno vi ha detto: ma una lavatrice non è un uomo, nel senso, cioè nessuno è andato a guardare quelli che sono i natali, no? Cioè nel senso, ma come, cioè, voi non facevate, non avete il pedigree buono, voi facevate con la puzza pezzi, un po' sotto il naso. Esatto. E beh, ce lo siamo creati il pedigree con la reputazione. Questo è un passaggio progressivo, o sono degli ostacoli? Cioè è stato semplice presentarsi, no, togliersi il cappello da meccanico e indossare quello? Sì, da produttore di tubi per lavatrici, insomma. È stato uno sforzo interno di adeguamento normativo. C'è stato un investimento importante da parte nostra nell'adeguare la struttura, che allora era una piccola struttura, alle normative del settore biomedicale. E un adeguamento che ci ha aiutato molto a crescere, perché cambia anche la mentalità di fare impresa. Certo. Senta, allora, adesso parliamo però del punto centrale. Cioè, anche qui un conto è l'idea, un conto è l'industrializzazione di questa idea, un conto è successo, e per tutto questo la base fondamentale è la ricerca. Allora, che rapporti avete con i medici, che rapporti avete con, o avete creato, con le università? Allora, io penso che la prima cosa che vale la pena sottolineare è che da noi in azienda, in Invatec, la ricerca e l'innovazione è una cosa da vivere, e penso che valga la pena interpretarla a 360 gradi, perché sì, è vera la ricerca tecnologica, ma la ricerca tecnologica e l'innovazione sui prodotti nasce se intorno c'è un humus e una volontà veramente di cambiamento continuo che viene da tutte le aree aziendali, per cui questo push a 360 gradi è fondamentale, è forse la cultura vincente. Come collaboriamo noi con centri di ricerca? Per arrivare all'eccellenza. Esattamente, per arrivare all'eccellenza, detto giusto. Noi avremo completamente raggiunto il nostro obiettivo quando nella mente di qualsiasi medico, nel momento in cui gli viene un'idea, il neon che si accende è il nome dell'azienda, della nostra azienda. La collaborazione è molto stretta, noi esaminiamo più di 20 progetti all'anno e se questi si allineano con quella che è la strategia aziendale, perché sempre di più diventa fondamentale il focus in questo settore, essere sicuri che non si disperdono nelle mille aree, perché devo dire che è un settore di grandissima opportunità, ma cercare di coglierle tutte a volte non è la cosa più positiva. Quindi circa una ventina di progetti, se rientrano in quello che sono le nostre strategie, la cosa importante è dar subito una risposta al medico, alla sua idea e cercare di svilupparla insieme. Chiaro, noi siamo gli esecutori delle loro idee. Ecco, noi abbiamo qui in studio Paola Margnini, che è la coordinatrice della Commissione Centri Studi Associazione Confindustria, giusto? Sì, assolutamente. Perfetto. Sì, allora, questa storia è una storia, è una mosca bianca, cioè ci troviamo di fronte a pattuglie di aziende che a un certo punto della loro vita decidono di in qualche modo cambiare vocazione, ci riescono, oppure una storia italiana? Ma io direi che innanzitutto è una storia molto bella, una storia che parla della voglia di guardare il diverso, di guardare al di fuori del proprio ambito, di guardare al di fuori del proprio singolo settore di appartenenza. Come diceva prima Sandro Mangiaterra, è un meticciato di settori che sta portando alla ribalta sempre più casi aziendali simili a questo. Non si può chiamare una pattuglia perché sono ancora tante singolarità, ma tante singolarità che emergono con continuità. Sono dei funghi che continuano. Per anni si è detto fare sistema, giocare in squadra, queste però sono storie singole, cioè sono aziende che... Sono storie dell'innovatore puro. Ah beh, certo. Lui giustamente certo. Ha detto: mio padre ha avuto un'idea. Mio padre, che aveva raffinato ai massimi livelli la capacità tecnologica di lavorazione di un materiale, la plastica, ha avuto un'idea. Un'idea che potenzialmente potrebbe essere anche banale: facciamo un buco, facciamo tre buchi. Ma poi subito dopo, da quest'idea, è riuscito a stringere col consumo, è riuscito a mettere in rilievo, a mettere in circolo la capacità di andare verso il consumo diretto per un prodotto di tecnologia molto particolare. Quando lui ha detto: io mi rapporto con i medici, a loro all'inizio ha offerto un prodotto quasi artigianale, la prototipazione, la capacità di sperimentare, la capacità di ascolto del bisogno. Casi come questo nascono soprattutto dalla capacità di ascoltare un bisogno, certo, che è ancora inespresso. E di interpretarlo. Di interpretare in anticipo un bisogno che è ancora inespresso. C'è un nostro ascoltatore, Franco, che si domanda però giustamente: ma non c'è il rischio che restare continuamente aperti all'innovazione e poi si continua a cambiare e non si è capaci di fare bene una cosa? Beh, il suo caso mi dice di no. È vero che c'è una scuola di pensiero secondo cui, insomma, uno si deve specializzare, diventare il migliore. Loro avevano già raggiunto un ottimo livello di specializzazione nella lavorazione dei materiali. Hanno avuto l'idea in più, l'idea innovativa. Non hanno abbandonato la capacità del saper fare che avevano raggiunto. L'hanno specializzata, l'hanno raffinata e l'hanno applicata ad un altro mercato. Ci sono da dire due cose secondo me importanti. Cioè, la prima cosa è che l'Italia dell'industria a basso valore aggiunto è un'Italia che va a scemare, che va a decadere, che deve forse qualcuno dice che deve scomparire, no? E quindi prima Venturelli diceva: ma noi a un certo punto potremmo avere 10, 100, 1000 competitori nel nostro campo, dove anche la nostra storia si sarebbe perduta. Quindi, e allora uno cerca di piazzare la propria azienda in un segmento più alto dal punto di vista innovativo e tecnologico. Questa ricerca di continuamente cercare alto valore aggiunto è una ricerca in cui l'Italia deve buttarsi a pesce, perché la concorrenza internazionale se no la fa fuori. Quindi questa è la prima cosa. E poi la seconda cosa, scusa Luca, che volevo dire, è significativa la storia di Venturelli, perché la ricerca è disponibile anche per le piccole e medie imprese, e basta andarla a cercare. La tecnologia, l'innovazione deve essere cercata ed è disponibile oggi. Bisogna cercarla, capire cosa fa per te riportarla in casa e industrializzare in casa quello che dalla ricerca ti può servire. Ecco, ma ripartiamo esattamente da qui. Voi la ricerca avete seguito il consiglio di Mangiaterra, siete andate a guardare là fuori, a cercare là fuori, ad aprire i cassetti delle università, oppure vi siete basati su quella che poi è la vostra esperienza, che era il know-how, che era quello che la conoscenza del padre, era insomma il patrimonio, diciamo, dell'aziendale? Il 90% della nostra ricerca viene all'interno delle mura dell'azienda. Sempre di più ci stiamo aprendo nei confronti dell'università. Tra l'altro Invatec fa parte anche di un consorzio che spinge questa cosa, perché c'è molto da scoprire all'interno dell'università, ma c'è un grosso problema di dialogo tra aziende e università che non parlano la stessa lingua. Il futuro dell'università, il futuro della ricerca nelle aziende, soprattutto nelle aziende medio-piccole, sarà il sempre maggiore dialogo e allineamento con l'università. Perché è vero che la ricerca c'è, ma la ricerca costa, e probabilmente aziende che non superano una certa soglia di fatturato non possono fare e continuare a fare ricerca. Dice, mi sembra l'ascoltatore Franco nell'SMS, sì, ma fare ricerca non ci disperde. Ho detto nel mio primo intervento che l'importante è la focalizzazione, per cui quando uno identifica il suo filone è lì che deve investire, non ricercare nei 360. Ecco, ma qualcuno, cioè, diciamoci la verità, insomma, qualcuno le ha detto in azienda: no, ma questo cambiare in corsa, questo non è roba nostra, non è un settore nostro, ma perché spingerci a provare ad andare a toccare cioè ad affrontare terreni che magari sono ostili, che non sono quelli a cui siamo abituati? C'è stato un momento in azienda in cui l'hanno guardata e dice: ma siamo impazziti? E mi hanno guardato, e probabilmente queste persone non sono più in azienda. Nel senso ma che... c'erano, quindi c'è stato qualche vecchio dipendente. È importante fare anche delle scelte. Mi sembra che Darwin dicesse che la specie che sopravvive non è quella più forte, non è quella più intelligente, ma quella che sa mutare. Per cui il cambiamento deve essere una cosa continua, e è difficile perché l'essere umano non è così votato al cambiamento come spinta continua, ma poi si innescano dei meccanismi che autoproliferano. No, soprattutto nel ruolo dell'imprenditore, perché poi l'imprenditore, nel senso, non è il manager che fa ricerca e sviluppo e che è portato a cambiare continuamente idee. Infatti io volevo capire, c'era qualcuno che si è opposto strenuamente oppure no. Li ha convinti tutti, diciamo. No, fino ad oggi li ho convinti tutti, quando li convincerò non sarà più il posto giusto. E come avete fatto a andare a vendere gli stent made in Brescia negli Stati Uniti? Gli stent negli Stati Uniti non sono ancora venduti perché stiamo certificandoli, perché noi facciamo non soltanto stent, ma facciamo tutti quelli che a me piace chiamare sistemi minimamente invasivi per il trattamento delle patologie vascolari, perché quando diciamo cateteri si pensa a qualcos'altro, sì, che non vogliamo citare per radio. Possiamo citarlo, sì, siamo, comunque, abbiamo, certo, possiamo invece, citarlo invece lei dice ci sono una gamma, le faccio capire che nel nostro portafoglio prodotti ci sono almeno 32 famiglie di prodotti che trattano queste patologie. Come abbiamo fatto? L'azienda da cui siamo partiti, che era la società Fogazzi è il cognome di mia madre, da cui abbiamo cominciato a fare i primi prototipi di cateteri, era fondamentalmente un bacino di tecnologia. Noi facevamo prototipazione e piccole serie. A un certo punto ci siamo resi conto che la massima espressione di questa tecnologia doveva passare attraverso un brand riconosciuto, ma non era nel nostro DNA il saper fare marketing e vendite. Quindi ci siamo uniti a un altro partner, che è il partner di Invatec, un socio tedesco di Invatec, la cui esperienza è un'esperienza puramente di sales e marketing. La sua vita era una vita da distributore, e che ha vissuto la ciclicità di prendere distribuzioni, promuovere sul mercato e poi normalmente perderle. A questo punto la esigenza nostra di creare un brand e proporlo sul mercato e poter gestire in maniera più diretta il nostro futuro. Quindi al socio tedesco, proprio per intenderci, cioè al socio tedesco che vi ha insegnato un po' a il socio muovere. Tedesco ci ha insegnato a vendere e il socio italiano ha insegnato a fare le cose. Vabbè, questo qua è un'unione che fa la forza. Però ecco, noi pensiamo, siamo abituati a sentire, a leggere che nel biomedicale noi stiamo perdendo posizioni, che assolutamente. E invece noi, lei, la Invotec, sta andando a vendere, a esportare prodotti biomedicali italiani in tutto il mondo. È vero, Invatec lo sta facendo, purtroppo anche da recenti eventi sui bandi di ricerca sembra che il biomedicale non si sa perché non sia così tanto considerato. Io spero che ci sia qualche revisione su questo, perché il biomedicale rispetto a moltissime altre aree industriali può vedere soltanto la crescita. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada, Sandro Mangiaterra. Stiamo parlando di meticciato, di aziende che cambiano vocazione, che cambiano idea e ci riescono. Abbiamo in collegamento Davide da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare un'idea su questa cosa dell'innovazione, cioè che per fare innovazione si può fare innovazione sul formaggio, sull'atomo o sulla plastica, ma il procedimento è sempre lo stesso. Certo. Nel senso che la massima innovazione che esiste nel mondo è il figlio, cioè due persone si incontrano diverse, un uomo e una donna, e fanno nascere un bambino. Vabbè, questo poco ma è sicuro. Quello è il terzo, e quella è la massima espressione dell'innovazione, perché due persone che non si conoscono e sono totalmente diverse si incontrano, come per esempio nei vostri ospiti c'era il tedesco, il francese, il massimo esperto di quella cosa. Quindi, che metteva insieme con una cosa diversa e faceva nascere qualcosa di diverso. Quindi stai dicendo che il meticciato funziona, ci stai dicendo? Sì, perché funziona, perché se due persone, non sempre, perché non tutti i figli nascono col buco naturalmente, no? Vabbè, questo è poco ma è sicuro. Nascono dal buco, ma nascono col buco, per cui il problema è farli nascere e poi crescere bene, per cui tutti tentano di innovare, tutte le aziende tentano di innovare, ma soltanto quelle che ci mettono passione e la collegano con una leadership importante, con un'autorità forte, allora secondo me riescono a portare avanti l'idea di innovazione. Altri invece no. Grazie Davide. Io mi ricollego al ragionamento sulla passione, perché noi abbiamo un'altra storia che è ugualmente di passione, di Emilio Beschi, che è il titolare delle officine aeronautiche Davide di San Zeno Naviglio, Brescia. Anche questa storia è bresciana. Sentiamo chi è. Il paziente è il motore dell'aereo. Il dottore è lui, che deve individuarne eventuali malattie. Emilio Beschi, 42 anni, titolare delle officine aeronautiche Davide di San Zeno Naviglio, provincia di Brescia. 3 milioni di fatturato, specializzata nella revisione dei motori di piccoli e medi velivoli ad elica, si descrive così, come una sorta di medico, che deve garantire che tutto giri per il verso giusto. Qual è la prima cosa che deve fare un bravo specialista? La diagnosi, ovvio. Ecco allora la sua invenzione, ispirata proprio dalla medicina d'avanguardia. Un endoscopio capace di scrutare nei meandri degli ingranaggi, grazie a una microtelecamera grande 4 mm che fornisce immagini nitide su un display. I guasti non possono sfuggire, si vedono immediatamente. La sicurezza del volo è garantita. Buongiorno Beschi. Buongiorno a voi. Allora Beschi, ci racconti un po' questa storia. Voi avete inventato l'endoscopio per controllare i motori degli aerei. Siete partiti da questa cosa della medicina per applicarla alla meccanica. Ci spieghi di che cosa stiamo parlando? Che cosa vuol dire l'endoscopio per i motori aerei? Allora, endoscopia per i motori d'aviazione, si sta parlando di motori o propulsori d'aviazione generale. E mi permetto di poter sottolineare che non l'abbiamo inventato, ma comunque in ogni caso abbiamo fatto una seria ricerca e approfonditi studi sulla possibilità di poter indagare all'interno di un motore senza dover per forza di cose aggravare di costi onerosi quelli che sono derivati ovviamente da un intervento invasivo nei confronti del motore. Quindi proprio come per la medicina, voi non fate interventi invasivi? No, non sono interventi invasivi solo e esclusivamente quando non è necessario farlo, o quantomeno il nostro obiettivo era quello di non dover fare interventi invasivi, e per poter far questo era necessario munirci di attrezzatura specializzata che ci desse la possibilità di poter monitorare nei meandri più reconditi l'interno di un motore senza per forza di cose doverlo aprire. L'unico limite di questa microcamera, di questa sonda, sono le proprie dimensioni fisiche. Noi utilizziamo una sonda da 4 mm con installate microcamere che possono ragionare dallo zero all'infinito per avere una panoramica intera del motore, e nel caso in cui venga visualizzata una zona sospetta, installare una microcamera che ragiona invece in un campo che va da 0 a 30 mm, quindi con un'apprezzabilità e una risoluzione ottimale, oltre che avere l'ausilio di poter installare anche una microcamera a 90 gradi per le situazioni e le posizioni più anguste. Quindi Beschi, voi attraverso questo fascio luminoso, con questa sonda, con la telecamera, vi infilate nei meandri, negli ingranaggi del motore, anche quelli più inaccessibili, e poi si visualizza il motore e l'eventuale guasto sul monitor, è così? Esattamente, e con l'ausilio e con la concomitanza di un video recorder, tutta l'operazione di ispezione ed analisi è ovviamente commentata e quindi registrata in modo tale da poter dare all'utente, al proprietario o all'esercente della macchina, perché l'intervento è fatto non solo in azienda ma anche in base e in sede aeroportuale. Quindi è portatile, un'apparecchiatura portatile. È un'apparecchiatura portatile, esattamente, e si può quindi realizzare un DVD con il relativo filmato e il pertinente commento che l'operatore fa durante questo esame. Quindi Beschi, qui stiamo parlando di una cosa importante, cioè la sicurezza degli aerei, no? È la sicurezza voi degli aerei. Che motori di aereo revisionate? Allora, noi revisioniamo motori dell'aviazione generale, per meglio spiegarmi sono... è quella fetta dell'aviazione che è il capostipite, sostanzialmente è il caposaldo dell'aviazione. In che senso? Nel senso che comunque da questa fascia dell'aviazione nascono i futuri piloti di linea o i futuri piloti militari, perché comunque i nostri velivoli o quantomeno i propulsori, i nostri propulsori che equipaggiano questi velivoli, sono comunque dedicati ad un'aviazione che ha come scopo il lavoro aereo oppure la scuola d'addestramento oppure anche per chi se lo può permettere sono velivoli da turismo. Senta Beschi, però ci deve raccontare come vi è venuta l'idea di fare questo endoscopio per motori di aerei. Come vi è venuta, come le è venuto in mente sta cosa qua? Allora, il venire in mente una determinata cosa nasce soprattutto dalle esigenze di indossare i panni altrui. Questa scelta è dovuta per non comunque, ripeto, come ho detto inizialmente, non gravare non giustificatamente di costi la clientela. Cioè il passaggio dalla medicina agli aerei è curioso, cioè è quella che su cui ci interrogavamo. Guardi, perché la nostra è un'azienda di medie, piccole e medie dimensioni, è una piccola media impresa, che comunque ha il grande vantaggio delle piccole e medie imprese, che è il vantaggio della grande elasticità e non della staticità elefantesca delle grandi industrie, nel senso che quando comunque un'idea viene in mente al gruppo dirigenziale o al gruppo comunque pilastro dell'azienda, sono sufficienti pochi incontri, pochi scambi di idee per poter prendere una decisione che sia una decisione strategica. Quindi adesso dove lo esportate? Cioè, come? Avete fatto la medicina, gli aerei, adesso qual è il prossimo passaggio, visto che siete agili? Il prossimo passaggio, tenga in considerazione che l'azienda è munita anche di un banco prova per collaudare i motori dopo il loro opportuno disassemblaggio, lavorazioni meccaniche e riassemblaggio a collaudo, e questo collaudo avviene su un barco prova che è munito ed è formato comunque da un acquisitore dati in real time di 20.000 dati al secondo, in modo tale che tutte le grandezze fisiche possibili, catturabili ed prodotte da un motore durante il proprio funzionamento vengano monitorate e catturate. Senta Beschi, quindi lei insomma è il medico dei motori di aerei, col camice bianco fa le diagnosi e vede che tutto funzioni, proprio come un medico. Guardi, io quando parlo con i miei collaboratori e con il mio staff oppure anche con i clienti, un paragone lo faccio sempre, a volte anche ripetitivo, ma il paragone non lo ritengo improprio ad una sala chirurgica, con un'unica differenza, che se l'equipe medica commette errori, purtroppo sul letto il paziente ci lascia le penne, muore, esattamente. Noi invece abbiamo questo numero di pazienti viene moltiplicato per una, certo, per un'incognita, perché non sappiamo quanti sono gli occupanti, ma a maggior ragione bisogna non che possiamo preventivare dove l'aereo possa cadere. Grazie Beschi della grazie. Chiacchierata, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno, grazie. Ecco, un commento fulmineo: piccolo è bello, però si diceva che piccolo non si cresce, cioè questa media azienda agile va bene allora. Paola Marini. Sì, la media azienda agile va bene perché riesce a coniugare con elasticità e con velocità il momento della creazione, l'idea, e il momento poi della scelta dell'organizzazione. L'abbiamo sentito in questo caso, l'abbiamo sentito anche nel caso precedente, quando la formula dell'innovazione proposta alla grande impresa faceva ritornare sulla piccola impresa la sperimentazione. Nova Lab 24. Abbiamo un sms in sospeso. Venturelli, ricordiamo Venturelli che è passato dalla meccanica alla medicina, giusto? Esattamente. Allora, l'sms dice: va bene l'innovazione spinta, però i device di Invatec che tipo di garanzie di sicurezza ed efficacia hanno? Hanno passato dei trials, degli studi clinici? Jacopo da Verona. Allora, voglio rassicurare Jacopo che i nostri device sono assolutamente sicuri. Noi non innoviamo e mettiamo immediatamente sul mercato. Ci sono enti terzi che certificano i nostri prodotti e soltanto dopo questa certificazione, che ne prova l'efficacia e la safety, come si suol dire, vengono messi sul mercato. Per cui... Quindi va bene cambiare vocazione, ma poi ci sono delle regole per fare le cose. È un mondo estremamente normato. Noi non cambiamo invece vocazione se parliamo di Nova, che domani è in edicola. Abbiamo qui Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova, nonché mio capo. Buongiorno. Beh, non metterla così, perché la metto così, ti metto un po' in soggezione. Un po' di piaggeria non fa mai male. Dunque, siamo a Nova in edicola domani, come tutti i giovedì, insieme in allegato al Sole 24 Ore. Questa volta parliamo di macchine del senso. Detto in soldoni, l'evoluzione dell'algoritmo di Google. Cioè, tutti gli studi che si stanno facendo a livello universitario, a livello di ricerca, per trovare i sistemi, le parole, i modi per ordinare il sapere, la conoscenza che è in rete. Sì, che tra l'altro è la sfida strategica, nel senso che ormai che hanno digitalizzato quasi tutto, bisogna capire come trovare le informazioni. Come trovare le informazioni, ed è sempre più importante trovarle in maniera rapida, veloce e secondo le nostre esigenze. Allora, Google ci ha aiutato molto, perché rispetto agli inizi ci ha aiutato a dare un ordine di un certo tipo alle informazioni che possiamo trovare in rete. Sempre di più si va sulla semantica, sull'organizzazione della conoscenza, sui modi di organizzare, per andare a trovare quello che noi cerchiamo, che è un argomento senz'altro enorme, soprattutto in prospettiva, però che secondo me non toglie spazio al ritorno di Tremolada, di Luca Tremolada, sulla carta, perché per una volta sei uscita dalla radio e sei tornato sulla carta. Per una volta, esagerato. Insomma, un po' di tempo che i lettori non ti trovano sulla carta. Questo è uno scambio. Che cosa ci racconti? Scambio di piaggeria. Allora, domani esce una console portatile, ma noi, che si chiama PSP Go, ma il ragionamento che noi abbiamo fatto è il seguente: questa è la prima console che è nata senza supporto fisico, senza dischi, senza cartucce. Si ciba solo da internet di film, giochi, musica e foto. È un cambio, è un cambiamento di paradigma enorme, ma la cosa che abbiamo scoperto è che il famoso passaggio dal mondo fisico al mondo digitale funziona se il gioco che io scarico dal mondo digitale magari mi costa un po' meno. Ebbene, non è così. Allo stato attuale, scaricare da internet non è così conveniente, o non lo è ancora. Ma forse è più bello? Sono giochi più belli? No, sono uguali. Sono sostanzialmente uguali. Ci sono giochi un po' più semplici e più divertenti, si scaricano più velocemente, però insomma, tutte cose che hanno già inventato l'iPhone e che in parte conosciamo. Però insomma, ci troviamo in un paradosso tecnologico dove esiste questo mondo completamente digitale dove potremo scaricare dai giornali alle notizie, alle foto, ai film, ma non c'è una convenienza. Oltre... saranno contente forse le mamme e i genitori che non hanno più le scatole di videogiochi ovunque per la casa. Sì, forse perché tra l'altro la grande promessa è tutto digitale, grande spazio in casa perché non avrò più bisogno di andare dal negoziante a prendermi il dischetto. Invece vedremo, qualche cosa mi aspetto che cambierà. Secondo te i costi però si abbasseranno progressivamente? Progressivamente sì, sicuramente. Noi abbiamo un countdown che è crudele. Io ringrazio Magnini, ringrazio Venturelli, ringrazio Mangiaterra, ringrazio Soldavini, ringrazio un sacco di persone. L'appuntamento è per domani alle 16. Arrivederci. Nova Lab 24.